è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti. Saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Corri presto, vai Zambetti, siamo tutti con te. Tu digli al mafioso che ti mando io, magari firmiamo un bel contrattino. Non vogliamo, cari ascoltatori, infierire su una persona che è stata arrestata, però... Chi l'ha detto? Però la Zanzara è anche un programma satirico e la mitica Barbarelle, questo è il suo nom de plume, nome d'arte, ci ha regalato in esclusiva per la Zanzara, come ha già fatto sul caso Sallusti, questa meravigliosa canzone ironica sull'arresto di Zambetti, che è assessore ormai ex alla regione Lombardia, che avrebbe chiesto, avrebbe dato soldi in cambio di voti. Un bel contrattino. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Vabbè, è inutile che parliamo della vicenda. Formigoni si deve dimettere, non si deve dimettere, fate voi, poi noi diremo quello che ci pare. Naturalmente per Parenzo sì, per me ni, per me ni, per Parenzo sì. Per me si doveva dimettere ieri. Sì, per me ni, per me ni nemmeno oggi. Ma c'è qualcuno che perché ni? Sei il solito bi bi bu bu ni ni. Adesso al di là di quello che accadrà domenico. Vabbè, vuoi fare, vuoi stare zitto che abbiamo due ore e mezzo di trasmissione, abbiamo un sacco di tempo. No, abbiamo tu un sacco hai due ore e mezzo, io ho da fare mille cose. Ma abbiamo due ore e mezzo di diretta, a non rompere le scatole, tu, stai tranquillo. Io ho mille appuntamenti, non so se starò a lungo perché tra l'altro adesso mi hanno dato. Io rescindo il contratto. Sono diventato capo dell'ufficio Ricatti e quindi ho delle cose da sistemare. Ah, capo dell'ufficio Ricatti, ma quello non era il tuo avvocato, l'avvocato da Ormina, no? Ufficio, allora, ti chiamano tutti. Dimmi. C'è una guerra in corso, quella tra Renzi, sì, e Marchionne. Cioè Renzi è in guerra con tutti, D'Alema e Marchionne, oppure gli altri sono in guerra con lui. Che vergogna, Marchionne, guarda. Ma perché sei così fissato con Marchionne? Perché sei che così fissato con Marchionne? Il cittadino italiano. Comunque io voglio, oddio, in voglio partire da una cosa. Voglio partire da Renzi che non cent'anni fa, ma l'11 gennaio del 2011, questo diceva di Marchionne. Sentite. Sì, bravo. Io sono dalla parte di Marchionne, dalla parte di chi sta investendo sul futuro delle aziende quando tutte le aziende chiudono, senza se e senza ma, dalla parte di chi crea lavoro e di chi crea ricchezza. È una frase che gli viene rimproverata, rimproverata spessissimo. In realtà era molto... No, era specifica, riguardava un certo periodo in cui Marchionne voleva investire sull'Italia. Il Renzi di oggi invece che si dice deluso da Marchionne. Non è che ho cambiato idea io, è che Marchionne non soltanto ha cambiato idea, ma ha tradito, perché Marchionne qualsiasi risultato positivo abbia ottenuto, e li ha ottenuti negli Stati Uniti, anche in partenza, recuperando un po' di ruolo alla Fiat, perché oggettivamente qualsiasi risultato otterrà in futuro, avrà quella macchia di aver preso in giro quei lavoratori e più in generale anche quei politici che si sono fidati di lui, dicendo una cosa che non avrebbe fatto. Da una cosca a comprare. Vabbè, volete sapere la risposta? Già la sapete, la risposta di Marchionne a questo. Allora, Marchionne ha detto che si sente una sorta di brutta copia di Obama e che Firenze è una città piccola e povera, c'è il sindaco di una città piccola e povera. Questo francamente mi pare una cosa un po' esagerata da parte di Marchionne, che può dire quello che vuole, però insomma Firenze... No, gli ha risposto già Renzi, dunque botta e risposta pazzesca. Renzi riesce a stare sui giornali, riesce a attirare l'attenzione anche senza volerlo quasi, E ci faccia la cortesia di sciacquarsi la bocca quando parla di Firenze. Vabbè, l'altra guerra che abbiamo creato noi in realtà è quella tra Crosetto e Scajola, con il gentile contributo dei protagonisti naturalmente, certo. Sentiamo ieri Scajola che è dello sciacallo a Crosetto che lo vuole fuori dal PDL. Ce ne sono tanti che parlano a vanvera e che speculano sulle cose degli altri. Parlo anche di Crosetto, che dove è andato ha sfasciato, ma perché è abituato ad anticipare la parola al pensiero. È più veloce la parola che il pensiero. E e anche lui non vuole guardarsi mai le carte. L'abbiamo fatto coordinatore del Piemonte e purtroppo è stato un disastro. È qui vicino, stanno facendo gli sconti. Saranno 50. Vabbè, ci sono ancora gli irriducibili su Berlusconi, Bondi. Bondi questa mattina. Sandro Bondi? Sandro Bondi, questa mattina. Ma chi è? Beh, ancora coordinatore del PDL, gigante tra i lillipuziani. Berlusconi, senti, abbiamo già un ospite pronto, Parenzo, ti ho regalato una grande sorpresa. Grande sorpresa ti ho regalato. Ma Bondi, io conosco quello della Padre, Enrico Bondi. Sì, no, Sandro Bondi, coordinatore del PDL. Non mi ricordo. Non è morto nel senso ma politico. Mi sembra un nome, cioè, come tu dici, che appartiene a un'altra epoca, sì, che appartiene. Come tu dicessi l'astropitecro, il tirannosauro Rex, dice il cazzo, invece Bondi, sentiamo. Bondi. Beh, è stato un gigante della politica rispetto a tanti lillipuziani della politica e la storia renderà onore e merito ai suoi, a tutto ciò che di buono ha fatto. 50 euro a voto. Tu a forza di fare così, però, Parenzo, alla fine non verrà nessuno qui alla Zanzara, te lo dico, cioè non viene più nessuno, te lo dico, perché ogni volta avete detto questo, non vengo, vaffanculo, questa è la risposta, cioè è puntuale questa risposta. Ma abbiamo detto no, va bene, perché anch'io faccio così ogni tanto, però ormai siamo ridotti al lumicino, lo annuncio, siamo ridotti al lumicino. Che non va via più nessuno. Ma no, adesso nessuno, no, poi alla fine comunque no. Però c'è questo problema. Ultima cosa che voglio farvi ascoltare, ma c'è molta carne al fuoco. Salvini, siamo al ventennio fascista su Monti. Salvini, caro amico Salvini, qua si riaccentra tutto, si spegne la luce prima la sera, manca la richiesta delle fedi nuziali per il duce e per quanto mi riguarda siamo al ventennio fascista. Vabbè, follia di Salvini. E su Grillo voglio dire solo una cosa, non capisco le polemiche sulle cose Mao, Mussolini eccetera, la trovata per far parlare di sé per le elezioni in Sicilia è geniale, punto e basta. 800 24 00 24, iniziamo la Zanzara con Massimo Giletti. Buonasera. Beh, buonasera, ciao. Ciao Massimo, ridi, che ridi, ciao. Che te ridi. Qui saliamo già negli ascolti. Trovate i passaggi, un bel lavoro, cioè redazionale. Insomma, il lavoro qui di giorni e giorni, no Parenzo? Soprattutto Parenzo lavora moltissimo, Massimo. Sì, qui lo vedo ovunque Parenzo, infatti un po' ti tradisce. Mi tradisce ogni giorno, ogni secondo della sua vita, però sai, tu hai mai fatto coppia con qualcuno? Dal punto di vista professionale, dico, per carità. No, solo con donne professionalmente, con uomini non ho mai diviso. Noi abbiamo dormito anche insieme, ci è capitato. Ma perché può anche andare, ma dico, ma televisivamente. Televisivamente, dico, televisivamente. No, mai. Mai. Senti, ma Celentano l'hai visto? Celentano lo fantastico. L'hai visto, Il carisma uno o ce l'ha o non ce l'ha. Hai contribuito suonare, al successo Mediaset. Dimenticarsi le parole, ma il carisma è una cosa non c'è fantastica. Dubbio. Peccato che la Rai l'abbia perso. Ecco, questo ti volevo chiedere, Ma un errore clamoroso è stato. Ma certo, poi bisogna sapere esattamente come stanno le cose, ma i grandi artisti sono uomini di polemica e di riflessione, non sono facili, e quindi è un peccato vero. Io ieri sera ho sofferto vederlo dall'altra parte, anche perché ho sentito delle parole che lui forse sono sfuggite ai più, ma a un certo punto ha detto, ma poi magari questa primavera torneremo, facciamo qualcosina, capisci? Dunque la Rai si muova per riprendere Celentano? Fai un appello. Quando tu perdi un personaggio è difficile poi riportarlo. Anche se devo dire che Celentano è un uomo perfetto per la Rai, poi, no? Anche come personaggio, cioè proprio un uomo Rai, uno non se l'aspetta una cosa su Mediaset, o sbaglio? No, ho fatto fatica a vederlo lì, ma infatti lui aveva chiesto alla Rai di stare con noi, ma ha dimostrato che anche cantando fa ascolto, anche solo cantando, perché ieri sera ha fatto dei botti pazzeschi. Errore clamoroso, insomma, quello del servizio. Ha detto errore. Si fanno errori, ma non si fanno mai soli, magari è più complessa vedere tutto quello che c'era dietro, non è semplice, certo. Però comunque uno come Celentano, vederlo dall'altra parte mi fa effetto. Ma senti, tu sai, Cruciani, che solo dire il nome Giletti, già stare negli ascolti. Dici? Sì, solo per adesso non esageri, adesso come al solito devi sempre lisciare il pelo a tutti gli ospiti per poi dare la zaccagnata, la coltellata alle spalle, tecnica. Arriva a colpire, però è vero quello, quello ormai è una cosa risaputa, non è che adesso lo dici, stai scoprendo l'acqua calda, cioè non è normale, molto. Così da tempo è così, è una molto. Cosa già registrata, no? Non è una cosa su cui molto. Tornare, però voglio dire una cosa, che effettivamente questa arena non c'è niente da fare, vince già detto che fa delle risse. Alla prima puntata ha già detto che fa delle risse. Come mai? Ma forse perché da lui si dormiva. Però il problema non è di risse. Il confronto dialettico è importantissimo. Le risse sono un'altra cosa. A me lo la dice, dialettica è molto diversa. Se non c'è dialettica, poi noi siamo latini. Sì. Se uno può voltare una televisione di un altro tipo, sì, è libero di farla. Io sono per la dialettica anche vivace, purché sia su temi seri e contenuti. Mi occuperei piuttosto di far bene le interviste, credo che Si chiama l'arena. Perché tu non l'avresti fatta quell'intervista là in quel modo, diciamo. Ma io non voglio giudicare gli altri, faccio già fatica a giudicare me. Dico solo che se una persona non è completamente libera di intervistare, allora è meglio pensarci, perché poi l'esposizione mediatica è pesante. Hai ragione, perché il problema è quello: se una persona non è libera e l'altra persona non può dire certe cose, e allora la cosa è castrante, no? È meglio accantonarla. Certo, sì, però è accattivante, cioè riesco a capire che l'oggetto del desiderio Minetti, da un punto di vista di pensiero, potrebbe fare anche share. Però non è così, non basta quello, non basta mettere lei lì. Ma tu la inviteresti, la intervisteresti? Sì, ma le tue condizioni? Ma senza condizioni. Io, a me ogni tanto mi chiedono condizioni di intervista, allora si può patteggiare qualcosa, sì. Ma il contenuto, la Minetti veramente è lì per che cosa? Cioè, noi l'abbiamo detto l'altra volta, usando comunque i suoi filmati, le sue storie, ne abbiamo parlato, ma io l'ho usata per dire: come fanno a stare in lista certi personaggi? Ecco, cioè, la domanda che tu avresti fatto è: scusi, ma lei in lista chi ce l'ha messa? E perché? Come e perché? Esatto. Ce l'ha messa Berlusconi, lo sappiamo tutti, questa cosa sì, qua. Ma ci sta, cioè, a me mi prende un po' ipocrita questa cosa di attaccare lei sul bikini, sulla sfilata, mi sembra ridicolo. Beh, come era ampiamente previsto, cari ascoltatori della Zanzara, e come noi avevamo detto in tempi non sospetti, vero Parenzo, la questione dei soldi dati ai partiti, lasciamo perdere le altre regioni, parliamo del Lazio, che è il caso che ha fatto poi scoppiare tutta la bolla. In due anni i soldi aumentano per i partiti da 1 milione a 14 milioni, vergogna, vergogna, vergogna. Questi soldi che aumentano non li ha decisi solo la signora Polverini, o non li ha decisi solamente il signor Fiorito o chi per UDPDL, l'hanno deciso tutti, tranne rare eccezioni, anche l'Italia dei Valori nel famoso ufficio di presidenza del Lazio, anche l'Italia dei Valori. E oggi il capogruppo dell'Italia dei Valori, per carità, siamo ancora alle fasi preliminari, eccetera, eccetera, è stato accusato, credo, di peculato, si è dimesso, questo bisogna dirlo, il signor Di Pietro gli ha imposto le dimissioni, non solo da capogruppo dell'Italia dei Valori del Lazio, peraltro, ecco, si andrà a votare, ma anche da consigliere regionale. Questo tizio si chiama Maruccio, se non sbaglio, Maruccio. Così si presentava in campagna elettorale, sentite. Ecco costui, sono Vincenzo Maruccio, 31 anni, ma ecco costui calabrese. Chi? Ecco costui, sentite ancora. Il 18 agosto del 1978. Successivamente alla laurea, ho svolto la pratica forense in uno studio della capitale. La laurea, signor Maruccio, ma come vengono scelti? Certo che Di Pietro ha una predilezione particolare per certi personaggi, bisogna dirlo, Parenzo, che fai? Difendi Di Pietro, non ho capito? No, anzi, ecco. Hai fatto benissimo ricordare, dire però che subito ha preso dei provvedimenti. No, ma questo va riconosciuto. Il casting con cui sono scelti alcuni personaggi effettivamente fa... Beh, insomma, anche fa questo... Fa pensare, anche questo, Maruccio, se voi andate a sentire questo appello agli elettori, eccetera, si può discutere. Giletti, che fate domenica? Non lo sapete ancora? Beh, tirerò fuori delle carte su questa vicenda. Le carte? Perché... molto complessa, anche quell'altra che non è finita, ovviamente, su Fiorito. Ci sono delle cose che tu hai detto sulle quali noi lavoreremo, stiamo lavorando. Vabbè, insomma, casta regionale. Mi parli, io ho davanti i documenti un po' riservati che sono riuscito ad avere su quelle, sulle cose che stai dicendo. Sui soldi. Sono ancora peggiori di quello che stai dicendo tu. Senti, ma qualcosa, perché Giletti, come si diceva, non è andato a fare la prima serata su Rai 2 di informazione, quel famoso spazio lasciato libero, eccetera? Ci tenevi, dimmi la verità, qui si può dire tutto, la Zanzara, sai, ci sentono in pochi. Ma il solito principio, a parte che uno poi te lo deve chiedere in modo serio, no? Perché ma c'è mai stata questa cosa oppure no? Sì. L'aria c'è stata, so che hanno discusso, eccetera, però il problema è sempre... Ma tu lo vuoi fare? Dipende dalle condizioni. Io credo che in questo momento, per fare l'informazione, devi avere la libertà che è necessaria a decidere quello di cui devi parlare. Ma questa, oggi questa RAI è più libera? Questa RAI è più libera di prima o no? Credo che in questo momento sia più libera. Ha un nuovo direttore generale molto tosto, credo che sia più libera, vada verso una libertà maggiore anche per la debolezza dei partiti, probabilmente. Cioè, prima avevate molte più rotture di scatole, diciamo. A parte che tu non hai rotture, ce l'ho sempre, non è che non le hai vabbè, da qualsiasi però parte. La politica è meno oppressiva in questo momento con questa direzione generale, diciamo. La politica deve pensare a lavorare bene, quindi sporarsi si occupi meno di Rai, ecco. Chi è quello che ti telefonavano prima? Ecco, appunto, chi è quello proprio che rompe le balle, che chiama? No, non ha mai chiamato. No, adesso sinceramente io non ho mai avuto pressioni di questo tipo. Noi siamo un po' in sordina, un po' perché spesso Sordina. Ci dicono ancora varietà, ci definiscono, e questo forse non se ne sono accorti che siamo altro. Ma infatti. Quindi siamo abbastanza ben liberi. Diciamo. Senti, ma tu non è che per caso vai a votare alle primarie del Partito Democratico, no? Bisogna iscriversi. Ma sei tentato o no? No, non ci sono mai andato. Trovo che comunque. A parte che non ti direi mai, lo so, io ci ho provato, però non sono mai andato, questo te lo posso dire. Massimo, ci ho provato, magari no, mi dicevi in un attimo di impazzimento, mi dicevi però, sì, voglio andare. La verità è che comunque non ci sono mai andato a votare? No, iscrive alle primarie. Alle primarie, certo, l'ha fatta solo il Partito Democratico. Certo, no, sarà molto difficile andare a votare queste, però bisogna andare, perché l'antipolitica non serve. Ma Renzi ti piace? Renzi l'avrò ospite domenica, vediamo se tra Marchionne, D'Alema e Bersani qualcosa. Recupera quella cosa di Renzi la prima volta che disse, no? Senza se, senza ma. Sostenuto, no? Senti, ma è anche interessante quello che diceva, dov'è che l'hai trovato quel filmato? È un filmato dove parla questo qui che hanno inquisito adesso del Lazio. Lo trovi su internet, sì, tranquillamente. Lo trovi su internet. Prendi anche quel filmato di Renzi. Vabbè, adesso non è che dobbiamo. Ma quello lo sa da solo. Ma quello sei. Due, ma sei banale. Cioè, questa è una roba che ormai circola dappertutto. Ma perché ogni tanto mi fai quasi pensare, dici, ma perché è così banale ogni tanto? Perché sto facendo anche un altro lavoro. Ma Minzolini alla fine se ne va dalla Rai o no, Massimo? Se ne va dalla Rai Minzolini? Non fa il serale sul post controversa, dicevano. Dicevano. Ma sarebbe una liberazione? Hanno liberato Vinci da quella situazione con Matrix, credo che qualcosa là vada collocato. Ma la Rai farebbe bene a liberarsene o no, secondo te? Il signor Minzolini? No, io sono del parere che la RAI ha delle risorse interne che dovrebbe sfruttare, perché continuare ad andare a cercare all'esterno mi sembra un po' sempre... Ma Minzolini è una risorsa interna. Quindi diciamo. Buon viaggio, Minzolini. No, al momento credo che non abbia un contratto, come no? Un contratto a tempo. Mica è paraculo, è un capo redattore. No, un contratto a tempo, sarà un anno o due. Ma quale tre. Tempo? Signor Minzolini ha un contratto a tempo? No, non credo che sia determinato. Indeterminato? Sì, sì. Ma questa mi è nuova, comunque devono farlo lavorare. Te lo dico io, devo farlo lavorare. Infatti è il capo dei corrispondenti della RAI, cioè è una cosa inutile. Senti, io ho già tanti problemi con lo so. No? Senti, ma è vero che dovevi andare a Mediaset alla fine? Te l'hanno chiesto? Questo si può dire, dai, mi hanno chiesto, ho detto di no. Allora, chi mi ha chiesto lo sa chi è, sanno tutto, quindi sì. E dillo pure tu, no? Dillo anche tu. Ma sanno, lo sanno, io ho glissato sempre educatamente, però vedo che fanno altre scelte anche lì, quindi... Vabbè, qualcuno te l'ha chiesto allora, all'epoca. Vuol vincere a suo modo, quindi... E dunque te l'hanno chiesto? Sì. E quanti soldi ti davano, per curiosità? No, non siamo entrati neanche. E tu hai detto di no. Hai detto di no. Il triplo di quello che pigliavi qua. Il triplo, benissimo, no? Ma è che io sono curioso di sapere una cosa: sei a favore dell'adozione per le coppie gay? No, io sono contrario. Credo che un padre e una madre siano necessari. È un gran paragone. Sono due figure completamente diverse e devono essere tutte e due con equilibrio. Poi può discutere, ma io non sono favorevole. Perfetto uomo Rai. Adoro Massimo Giletti. Dove sei? Pronto? Dove sei? Sono sempre al solito posto, cioè al lavoro alla 7 a ragionare sulla... Ma ne vogliamo parlare del fatto che ancora una volta le preferenze, le famose preferenze, alcuni vorrebbero tornare al fatto che si segnano i nomi, due o tre nomi sulla scheda elettorale, le preferenze, dal caso Fiorito a quello di Zambetti, l'assessore in Lombardia... cosa ci suggeriscono queste cose? Che non si può tornare alle preferenze, perché entrano in campo forze oscure, perché la gente cerca i voti in tutti i modi. In Italia non si può tornare alle preferenze, su, diciamola chiaro. Beh, ma non è proprio così. Come no? Come non no? È proprio come no? Così. È così. Non è così. Basterebbe intanto mandiamo i titoli del TG3, su. Ma che c'entra? La gente deve cambiare, certo che deve cambiare, ma che vuol dire? Non si deve tornare alle preferenze, questa è la mia opinione, poi naturalmente ci confrontiamo con gli elettori. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. In manette Zambetti, assessore della giunta Formigoni, avrebbe versato 200.000 euro all'Andrangheta per comprare 4.000 preferenze per i PM, era nelle mani della mafia. Indagato per peculato, il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio avrebbe sottratto al partito 700.000 euro, si è dimesso dagli incarichi e dice chiarirò tutto. 10 regioni nel mirino delle procure, oggi la Guardia di Finanza nella sede del Piemonte e delle Marche, mentre nel Lazio si accende lo scontro sulla data delle elezioni. Legge di stabilità, sindacati contro Italia, la sanità e il blocco degli stipendi degli statali. Commercianti, IVA più alta, altro colpo per i consumi. Bersani, ci sono cose da aggiustare, soprattutto su sanità e scuola. Vendola, il PD dia uno stop al governo. Scontro, D'Alema, Renzi, Marchionne. Beppe Grillo arriva in Sicilia a nuoto, attraversando lo stretto. È il terzo sbarco, dice, dopo Garibaldi e gli americani che hanno portato la mafia, ma stavolta è per la libertà. E dopo la protesta del sindaco sul tetto, oggi in corteo gli operai del polo siderurgico di Piombino. A rischio ci sono 3.000 posti di lavoro. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti. Saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Corri presto, vai Zambetti. Siamo tutti con te. Tu digli al mafioso che ti mando io. Magari firmiamo un bel contrattino. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti. Barbarelle mitica in esclusiva per la Zanzara ci ha regalato questa splendida parodia sulla vicenda Zambetti. Molto bene. È così, signori, si scherza anche su queste cose. Fatevene una ragione. E dov'eri? Dov'eri tu? Dov'eri io? Ma che stai dicendo? Quando noi in Lombardia denunziavamo il problema dell'Andrangheta e tutti che dicevano no, ma Saviano che cosa dice? Ma noi chi? Ma noi chi? Dove eravate voi? Ma voi soloni della stampa! Soloni della stampa! Ma di che stai parlando? Ogni qualvolta si tirava fuori la questione, Saviano diceva attenzione, in Lombardia, la Lombardia è la culla dell'Andrangheta, dove ci sono maggiori... A parte Zambettino, Mimmo Domenico Zambetti a parte sì. Quando si diceva, quando il Consiglio Comunale di Milano chiedeva una commissione d'inchiesta sulla vicenda dell'Andrangheta di Expo, dove eravate, amici, dove? Cicchitto, Berlusconi non è che lo possiamo ammazzare, Sì, Berlusconi è... ingombrante, cosa c'è? Non è che lo possiamo ammazzare. E quindi nel momento nel momento in cui lui fa un passo indietro, non è che può essere eliminato. Esiste comunque e dà un contributo anche da... Beh, da questo punto di vista però il Sor Cicchitto c'ha ragione, cioè va bene tutto, va bene che adesso tocchi Berlusconi e sembra chissà che cosa, però sto personaggio ha ancora un po' di consenso, come dimostrano tutti i sondaggi. Ha detto che più o meno vuole defilarsi. Beh, non è che però adesso no, non vogliamo fare accordi con voi perché forse Berlusconi può rimanere dietro le quinte. Giustamente Cicchitto dice, non è che lo possiamo ammazzare. Perché no, altrimenti l'unica strada sarebbe quella dei Giardinetti, che annunci il ritiro totale dalla politica. Però il problema è che quest'uomo è confuso. Signor Berlusconi è confuso. Vabbè, è confuso. È confuso. Non può chiedere referendum sull'euro o criticare la manovra di Monti e poi dire l'altro giorno: ma come va bene? Ma non va bene nulla. Sì, non non può dire va bene. Ma non è il momento adesso. Lasciami. Non è il momento. Alla fine aveva ragione Polillo. Hanno ridotto le tasse anche se hanno aumentato l'IVA. È un mezzo trucco. Forse pagheremo addirittura di più. Però Polillo, ieri sera a Ballarò, aveva detto: beh, ci sarà una diminuzione dell'IRPEF. Poi è stato smentito dal governo. Alla fine aveva ragione lui. Sentiamo. Io spero che poi, che adesso il Consiglio dei Ministri non mi smentisca fra 5 minuti, ma l'idea è di arrivare ad una riduzione del carico fiscale. e in particolare una riduzione. Polemiche, gli ospiti che se la prendono con lui, addirittura credo Catricalà che in diretta dice no, c'è una smentita, eccetera. Alla fine ha avuto ragione Polillo, eh? Il mitico Polillo, quello del curriculum dato a Cicchitto per essere presentato al presidente del consiglio, eccetera, eccetera, a Monti, eccetera. Lo vedi un buon Bocchino versus tutti, in realtà, questa mattina ad Agorà, da Vianello. Senti, senti, sempre con la solita cosa. Biancofiore, tu e Tramontano lavorate per Berlusconi. Sì. Tramontano che lavora per Berlusconi, la Biancofiore che lavora per Berlusconi, no, io tutte e due. Per Berlusconi. Io sono stata eletta democraticamente. E chi è l'editore? Non è Berlusconi. Non è Berlusconi, è Paolo Berlusconi. È Berlusconi, si chiama Paolo Berlusconi. È il fratello. Italo, è diversa, io il fratello. Capisco che. Polemiche assurde, devo dire, da parte di Bocchino, che mi è simpatico, però insomma non è che uno può dire lavori per Berlusconi, ma che vuol dire? Cioè, è la frase utilizzata, mi ricordo, contro Sallusti da D'Alema in un Ballarò di tempo fa. Sì, sulla vicenda. Poi addirittura dice Bocchino a Tramontano, che è il vice direttore del giornale, sei il vice di un pregiudicato. Bocchino, su. Va bene, adesso saluto. Allora, se non spengo i microfoni di Bocchino e Tramontano, lo devo fare. È un pregiudicato. Sì, va bene. Questa ti giuro che te la faccio pagare. Che io. Cosa? Penalmente. Sono stato penalmente. Non ho capito che è successo, perché io sto cercando di salirci. Penalmente te la faccio pagare. Il vice di un pregiudicato, perché Sallusti è stato condannato in via definitiva. Queste le polemiche, queste le polemiche. Che c'è altro? Che c'è? Vabbè, insomma, Renzi e Marchionne abbiamo detto. Ma della traversata di Grillo non hai voluto dire nulla. Sì, ma sentiamo Grillo, sentiamo Grillo. Sentiamo gli italiani, inizia un nuovo giorno. Italiani! Inizia un nuovo giorno! Per la Sicilia! Un genio, genio totale, genio. Vabbè. Assoluto. Gli americani hanno portato la mafia. Senti, ma uno che, scusa, uno che si inventa una cosa del genere dal punto di vista mediatico, di immagine, è un genio, sì o no? Sì, la risposta si è fatto è... una nuotatina, fine. Ma ho capito, ma te la fai tu la nuotatina che c'è la panza, te la fai o no? Ma io intanto non ho la panza, poi non si è fatto una semplicissima. Beh, anche lui ce l'ha in realtà, però. Nuotatina, si è fatto una nuotatina, ho capito, ma è una mossa in Normandia, che ma fare. È una mossa d'immagine, su, Parenzo, come fai a non capirlo? Dai, ma lo su. Capisco perfettamente. E allora? Ha nuotato, è andato a nuoto, ha fatto lo stretto di Messina. Inchinati di fronte al genio. Ma inchinati. Non mi inchi- di fronte gli americani hanno portato la mafia. Terzo, il terzo perché? Perché il primo l'ha fatto Garibaldi, vi ha portato in Savoia. Sì. Il secondo, gli americani vi hanno portato la mafia. E il terzo, vi hanno portato il Movimento 5 Stelle. Però né Lucky Luciano né Garibaldi sono venuti a nuoto. L'unico sono stato io. Detto che secondo le accuse Zambetti aveva promesso anche un contratto di parrucchiera per la sorella di uno dei boss e l'assegnazione di una casa Aller, cioè una casa popolare, in favore della sua amante, secondo le accuse naturalmente, lo stesso Grillo però ha fatto una gaffe, io gli ho dato del genio dal punto di vista mediatico, di comunicazione, però ha fatto una gaffe clamorosa su Cuffaro, cioè gaffe, insomma, ha detto una cosa sgradevole su Cuffaro, cioè, che lo ha visto benissimo perché il carcere fa bene, cioè, l'ha visto dimagrito, eccetera, cioè, una cosa cattivo gusto. Di cattivo gusto. Stefano da Milano, buonasera, 800 24 00 24. Stefano, dica. Cruciani, si muova, si svegli, basta parlare con questi politici, basta intervistarli, basta sentire queste loro cazzate, lei deve muoversi, deve creare un movimento, deve fare in modo che ma io non ci penso nemmeno lontanamente, già c'è Giannino, già c'è Giannino. Deve fare in modo che noi popolo ci possiamo muovere per far capire a questa gente che vale un cazzo. E le spiego il perché. Ma non mi devo muovere io, non si preoccupi. Le spiego il perché. L'IMU per la Chiesa viene rimandata al 2013. Tutto quello che riguarda la riparametrazione dei parlamentari viene rimandata alle nuove alla. Lei dice si sta muovendo poco. Gli unici che se lo prendono nell'ISCA siamo sempre solo noi. Dov'è che Cruciani, se lo prendo? Dov'è che se lo prendo? L'ISCA. Cioè che a Milano si dice nell'ISCA. Nell'ISCA, nel fondo schiena. Esatto. Io abito a Milano da tanti anni, ma non l'avevo mai sentita questa. Nell'ISCA. Bene. Grazie, quindi, Marco muova, da Roma, grazie. Da fare, forza. Grazie, Marco da Roma, buonasera. Buonasera, mi sente? La sento, dica. Ah, senta, qualche giorno volevo collegarmi, volevo parlare un attimo della Minetti, ma poi ci sarebbero altre cose da dire. Ma lei può dire quello che vuole, basta che lo dica in maniera breve, subito. Sintetica. Vuole spezzare una freccia intorno alla Minetti, perché da quello che si è sentito anche recentemente dalle colonne della testata giornalistica della Sole 24 Ore, cioè hanno finanziato la patata dappertutto, in Molise, in Emilia Romagna. Cos'è che hanno finanziato, scusi? Sì, sì, dalle vostre... Questa sarebbe una battuta? No, no, no, non è una battuta. 1500 euro per l'associazione delle patate in Emilia Romagna e 100.000 euro nel Molise. Quindi la Minetti ha solamente saputo elegantemente valutare la sua personalità e riuscire a entrare in politica. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Ti potrei schiacciare. Dove sei, ma dove sei? Ti stacco il pungiglione. Dove sei, ma dove sei? Ma vogliamo sentire la Biancofiore? La mitica White Flower, prezzo. Beh, regala sempre la signora. Beh. È quella che diceva che i tedeschi... Sì, i tedeschi? Non ce l'hanno... Sì, che non sono così macci come gli italiani, così dotati. Sì, diceva questo. Bisogna sapere se Zambetti sapeva con chi parlava. Ascolta. Bisogna vedere se Zambetti sapeva con chi aveva a che fare. No, lo dico con una clara certezza, perché purtroppo facendo politica è facile che ti si avvicinino dei personaggi che nessuno di noi conosce e che non, di cui non si conosce il background. E poi si è inventata un'altra cosa nella sua idolatria assoluta di Berlusconi. La B-Generation. Senti. Monti bis, tutto sommato, andrebbe bene allora. Al momento mi sembra l'unica strada percorribile, stando così le cose, ma nel centrodestra ci saranno grandi novità in futuro. Ce ne dice una? Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. Grazie. La Berlusconi Generation! Lezioni di vita? Ma che è Scientology? Lezioni di vita? Ma che è Ron Hubbard della politica? Vabbè, adesso la prendi troppo seriamente. Ma no, ma su... come? Ma perché ridi? Ma c'è da ridere, c'è da sgranacciarsi dalle risate. Lunga vita la signora Biancofiore. Ma quello figuriamoci, ma è una che c'ha gli altarini a casa con la foto di Berlusconi, che cosa vuoi fare? Cioè, sì, ma ho capito, ma si può, dai, che una che dice una, ma hai sentito cosa ha detto? A un certo punto dice a Bocchino: ti devi vergognare per quello che hai detto. Maestro, ti devi di vergognare, vita. Senti, ti ma devi vergognare. Obi-Wan Kenobi, oddio è? Mio, che ma moralismo. Sai chi era Obi-Wan Kenobi? Senti. Quando ti esprimi così, Italo, ti devi solo vergognare. Tu sai che io ti voglio bene come persona, però ti devi solo vergognare, anche nei confronti di Sallusti. Bene, anzi male, è riunita la giunta in Lombardia, pare che Formigoni sia in bilico perché la Lega tentenna, la Lega tentenna, è riunita anche la Lega, ma scusa, ma sono delle cose politiche che non si possono risolvere facilmente con le dimissioni, richieste di dimissioni della Lega. Chiedo scusa, c'è uno scandalo scoppiato in Lombardia che attiene alla sanità. C'è un assessore della Lega Nord che è assessore alla sanità. Oddio. Ora io non dico, non è colpevole. Senti, di nulla. Non mi interessa questa. Ma perché non si è dimesso? Non mi interessa. Paolo da Milano. Allora, eccoci qua, sono ritornato. Allora, io penso che Renzi sia un mischero che muove l'aria attorno a sé per far vedere che fa cose. Le idee che c'ha sono giuste, ma non ce la fa, non c'ha la skill, non c'ha il personaggio. Sì. E in più volevo dire un'altra cosa abbastanza importante che disse una volta Montanelli. Disse, beh, scusi, che... però se si parla di carisma, quello proprio non manca a Renzi. Scusi, ma un attimo. Che c'ha il carisma del bischero, parla. Vabbè, ho capito, ma lasci perdere la sua valutazione. Non le piace Renzi. Se uno può dire pochi contenuti, eccetera, eccetera, un po' vago, eccetera. L'unica cosa che non si può dire è che non abbia carisma. Certo. Cioè, non è che è facile riempire i palacongressi, eccetera, eccetera. Non è semplice. Se c'è il vuoto attorno, sì. Però scusi Paolo, adesso lasciamo perdere le valutazioni. Tutto si può dire di Renzi, tutto, tranne che non abbia carisma. Questa è proprio una delle poche cose che non si può dire. Ma per me non sono Devo d'accordo. Dire che l'errore è far rivivere anche mediaticamente il signor D'Alema. Cioè, perché, oh Madonna Santa! Questo è un errore capitale. Comunque mi segnalano una cosa, effettivamente dopo la Beat Generation c'è la Berlusconi Generation. È contento lei Paolo? Della no, lei fa parte o ha fatto parte della Berlusconi Generation? Ma forse all'inizio, ma poi dopo all'inizio, mi sono reso conto all'inizio. Di com'era la situazione, ho mollato la presa. Grazie. Corrado da Brescia, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Pronto, mi sente? La sento, però se lei non inizia a parlare. Sì, no, volevo solo dire che mi fa un po' sorridere la persona che è intervenuta prima dicendo a riguardo di Renzi. Il problema non è Renzi, il problema è questa classe politica che abbiamo da 20 anni, che è marcia e corrotta, che bisogna cancellare. Vabbè, però scusi, lei mi è un po' generico, Corrado. No, non sono generico, entro nel dettaglio. Entri nel dettaglio, avanti. Bisogna smettere di dare spazio ai Bocchino e ai Biancofiore di turno. E secondo me, voi organi di informazione dovete un attimino dare l'esempio, basta. Dobbiamo dare l'esempio, che cosa dobbiamo fare? No, nel senso, basta, date spazio alle persone oneste. Ma noi diamo spazio a chi vogliamo, abbia pazienza Corrado, non ce lo deve dire lei a chi dobbiamo dare spazio. No, non si preoccupi. Vabbè, ma ne abbiamo piene le scatole, sinceramente. E lei ne ha piene le scatole, se non le piace qualcuno. Vabbè, ma non sono l'unico, altra cosa. Non è l'unico, adesso lei è l'interprete dell'Italia, che cos'è? L'interprete degli italiani, avanti. Ah no, volevo solo chiedere una cosa, è da qualche giorno che gira in internet, sì, a riguardo, perché prima parlavate di elezioni, sì, che gira su internet, su un metodo di astensione nel caso si ripresenti questa classe politica. Ma che vuol dire si ripresenti questa classe politica? Bisogna distinguere. Abbiamo bisogno di gente nuova, di gente nuova. Ma che vuol dire? Lo specifichi, di chi sì, chi no, lo dica, gente, di altra gente, di altra così gente, genericamente altre persone, di altra gente. Abbiamo 60 milioni di abitanti in Italia, altra ci sarà gente. Qualcun altro che ha voglia di fare politica. Ma guardi, caro, caro Corrado, non è che sì, quelli lì sono a caso in Parlamento, certo. I mostri che ogni tanto transitano da questa trasmissione non è che sono lì a caso, come ripetiamo sempre e come sempre abbiamo detto, non è che lo diciamo solo noi, lì c'è lo specchio un po' del paese. Beh, certo, sicuramente. E dunque anche lei, anch'io, anche lei siamo responsabili di quello che è successo, ha capito? Una domanda, secondo lei, secondo me, non è che Monti voglia, secondo lei, eliminare, sì, questa classe politica attraverso gli interventi della Guardia di Finanza? No, grazie Corrado, no. 800 24 00 24, alle 19:41 voglio risentire la canzoncina di Barbarelle su Zambetti, e fatemela risentire, mi mette di buon umore. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti, lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti. E voglio fare un piccolo regalo all'ascoltatore di prima, però, caro Parenzo, perché abbiamo invitato questa volta una persona nuova. Devo dire la verità, un giovane, un cosiddetto giovane, anche se ha un ruolo, perché è il capo di quelli che venivano chiamati fino a qualche mese fa, adesso sono un po' in sordina, i formattatori del PDL, cioè i, diciamo, quelli che vogliono fare come Renzi nel PDL. Il molto sindaco bene di Pavia, Alessandro Cattaneo, buonasera. Ah, buonasera a tutti, buonasera. Come andiamo? Quanti anni ha lei, Cattaneo? 33, sono del 1979. Lei si rende conto che ha 13 anni meno di me? 13 anni, 13. Addirittura, 13. No, li porta sì, bene. È l'età di Cristo, li soprattutto. E io li porto bene, questo non c'è dubbio. Non so se lei, ecco, il paragone... Vabbè, comunque lasciamo perdere. Parenzo, no, che vuoi dire? Dimmi. Soprattutto c'ha 33 anni, l'età di Gesù, sì, e speriamo che non lo mettano in croce quelli del suo partito. Ecco. Beh, però vediamo, c'è sempre la possibilità di risorgere. Attenzione. Lo possiamo rovinare noi, per esempio. Mi dispiace il fatto che Cattaneo, che è il sindaco giovane di Pavia, eccetera, sieda al fianco, nello stesso partito, a stessa tessera, sì, di persone come l'amico Cosentino, l'amico Verdini, come amico, tanti altri amici. Gli hai dato del delinquente quasi, te lo chiami pure amico. Cattaneo, lei come Crosetto ci ha detto ieri, si vergogna un po' di tutti questi, di tutte queste persone implicate nel PDL? Insomma, il PDL la fa un po' vergognare, anche se lei è uno, insomma, relativamente giovane. Ma diciamo che sicuramente alcuni episodi dell'ultimo periodo fanno un po' indignare, però bisogna battersi da dentro. Però si vergogna un po', ogni tanto, sì. Ogni tanto si vergogna. No, più che vergognarmi del partito, mi vergogno dei singoli, delle azioni che molti di questi compiono. Ma ci vergogniamo tutti gli italiani, io a maggior ragione. Viceversa del partito no. Del partito no? Ma no, in che spiego? Ma esiste ancora il partito? No, è abbastanza sulla via della revisione piuttosto drastica. Dell'estinzione, diciamo la verità. Maggio chiedevamo solo noi la formattazione, adesso ho visto che si sono uniti tanti anche in maniera più brutale. Sì. E quindi, però in fondo io sono stato eletto a Pavia, sì, a 29 anni, anche perché ha preso il 35% dei voti il mio partito, e sento in qualche modo oggi di dover rendere un servizio al centrodestra, ormai mi piace chiamare più ampiamente centrodestra. Ma qui non esiste più niente, portando avanti una battaglia di posizione, di valori, facendo capire che ci sono tanti fiorito che fioriscono nel nostro partito, ma ci sono anche tanti per bene. Senta, ma questo nessuno lo mette in dubbio, per carità, infatti Parenzo chiedeva se lei non si vergogna a essere accanto a certe persone. Voglio dire, si vergogna o non si vergogna di certi personaggi del PDL? Lo dica chiaramente. Mi vergogno di alcuni personaggi che ci sono, che ancora sono nel PDL. Si può dire questo? No, mi indigno del fatto che posso, che succedano certe cose. È diventato cose, democristiano. È diventato. Sono tutti attenti a pesare le parole. Se dico questo, poi succede che quello mi chiama, mi rompe le scatole, chiama il coordinatore. Chiama ma il signor... che formattatori siete se non formati? È una cosa pazzesca. Allora facciamo una cosa, Cattano. Fermo un attimo, voglio fare un esperimento. Lei lo sa chi è il vice? Ce ne saranno tanti dei giovani del PDL? Lo so, mi ha attaccato ieri, sì. Lo sa chi è? No, proviamo a chiamarlo un attimo solo. Voi non ci potete credere a questa cosa qui. Il vice dei giovani del PDL, cioè il vice della signora Anna Grazia Calabria, che è il capo, esatto, dei giovani del PDL, poi Cesaro, bisognerebbe discutere, sì, anche di queste cose qui, si chiama Cesaro ed è il figlio di Cesaro, caro Perezzo. Sì, sì, sì, sì, figlio di Gigino la Pulpetta. Un attimo. Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera, c'è chi parla? Sì, sono Cruciani, buonasera. La disturbo? Radio 24? No, salve. Sì, è lei il figlio di Cesaro? Sì. Oh, buonasera. Come sta? C'è con noi il sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, che voleva, si è un po' arrabbiato con lei per quella cosa che è successa ieri. Si è arrabbiato così presto, mamma, com'è permaloso Alessandro. Scusi, lui ha criticato Berlusconi e lei ha subito difeso Berlusconi, signor Armando Cesaro. E certo, e quindi? Si è un po' arrabbiato, volevamo che, insomma, siete due giovani, quanti anni ha lei? Pace. Quanti anni ha lei? Io 30. 30. Senta, scusi, la prendiamo in giro naturalmente in maniera simpatica, siccome suo padre ha detto Gigino a Pulpetta, no? La possiamo chiamare Polpettina o si offende? Pronto? Se possiamo parlare di noi, di politica, sì. E poi dobbiamo parlare delle barzellette, non c'ho tempo. Io voglio fare una domanda in inglese, però. Lei lo sa l'inglese meglio di suo padre, signor Cesaro? Sicuramente, però non c'ho tempo da perdere. No, excuse me. Parlare di politica. Ma sì, no, we want to know. Ma adesso parliamo di politica. Sono disponibile H24. Però parlare, no, ma di politica delle... voglio parlare io. Ma di politica? No. La domanda è questa. Ma noi, se noi parliamo, parlando delle persone, parliamo di politica, certo. Lei lo capisce bene, no? Cioè, non è che noi siamo... No, non penso, non fate una radio, non siete una radio politica, siamo di politica. Noi siamo una radio che parla di quelle. Lei ci sta dicendo come fare la radio, signor Cesaro? E quindi? No, voglio dire. Pensiero, si può dire, siamo in democrazia, no? Sì, per carità, ma assolutamente, siamo in democrazia, cioè, figuriamoci. What? No, ma volevamo capire come si dice, come si dice quella cosa là, il forum mondiale, come si dice? Se lo ricorda, la gaffa di suo padre è fantastica. Devo dire che ormai è diventato un personaggio mediatico mondiale. Ma secondo me lo fa apposta. Ah, lo fa apposta, secondo lei? Sì, sì. No, ma guardi, questa qua è un'interpretazione interessante. Lo vede che invece parlando di queste cose si trova sempre uno spunto interessante. Cattaneo, perché se l'è presa con lei Armando Cesaro? Ma no, a parte che è la prima volta che lo sento direttamente, perché... Cioè lei non conosce il vice dei giovani del suo partito? Non abbiamo avuto occasioni e questa è la prima volta. Ma non esistono, è che mi sono... esistono io, i io giovani? Io mi sono arrabbiato e lui ha risposto a un comunicato stampa, un'agenzia che era uscita, in cui io, forse in maniera anche un po' travisata, io ho detto in risposta a Berlusconi che i giovani non è che devono essere formati, intendendo che la formazione avviene in laboratorio in chimica, la formazione è quella dei territori. Ma sì, ma non è che Berlusconi deve formare qualcuno, i giovani, altrimenti, scusi Cesaro, perché sei arrabbiato? Non è che i giovani devono essere formati da Berlusconi, no? No, ma se il Presidente si mette a disposizione e dice sono a disposizione per formare i giovani, io penso che i giovani, noi siamo giovani del partito, Alessandro, io non lo conosco purtroppo di persona. Ma com'è però, che non vi conoscete? Per fare il sindaco. È strano questa cosa, lei è il vice dei giovani. Suppongo che abbia militato nel partito, anche perché penso che sia stato eletto con la lista PDL, non con la lista... Cattaneo, non so, esatto, Cattaneo, formazione PDL. Vabbè. Quindi automaticamente se il Presidente fa il passo indietro, atto di responsabilità, fa un passo indietro, dice mi metto a disposizione, voglio formare i giovani, io penso che la polemica sia pretestuosa. Cioè che bisogna seguire Berlusconi, cioè, anche per lei Berlusconi è un, da questo punto di vista è uno che può formare tanti giovani ancora alla politica, o no? O sbaglio? Ma sicuramente è uno che ci può insegnare ancora tanto. No, non c'è dubbio su questo. Scusi un attimo, ma le posso chiedere questa cosa di Word? Come si dice? Come si dice questa cosa qua? Scherzi con noi, Cesaro. Se vuoi parlare di me, io sono a disposizione. Ma di no, se no chiama mio padre, scusa. Ma no, ma suo padre non vuole parlare di queste cose. Sì. Ma lei è più giovane, più scherza di più. No, ma se non scherza a questa età... Cioè, quando deve vogliamo parlare con Alessandro sono a disposizione, di altro no. Scusi un attimo, vogliamo risentire suo padre quando parlò del World Urban, sentiamo. World Urban Forum. Ma questa non l'ha fatta apposta. Quello di prendere il culo. Ma certo che lo piglia. Certo. Ci prende a noi per il culo, dice lei. Ma questa non l'ha fatta apposta, su. Ma scusi. Ma come si dice questa cosa qua? Lo dica lei, così la famiglia come già ti ho ripetuto. Se vuoi parlare di politica, continuo, se no attacco. Vabbè, non lo vuole fare. Ma non lo vuole fare, su, non lo vuole fare. Che dobbiamo fare? Ma no, ma voglio fargli una domanda. Scusi, partito. Ma è giusto, per esempio, se le faccio una domanda di politica, è giusto che suo padre abbia il doppio incarico dalla provincia di Napoli e da deputato? Questa è una domanda politica. Lei è il figlio, è vice coordinatore. A parte che non è più presidente della provincia. Vabbè, perché ha fatto questo trucchetto? Come? Perché si vuole ricandidare perché al Parlamento e questa è la realtà. Scusa, anche lei lo sa, signor Cesaro. Ma non lo so, io ti posso parlare delle cose mie, non di quelle di mio padre, scusami. No, ho capito, ma secondo lei non è un trucchetto per ricandidarsi in Parlamento questa decadenza, no? No, penso no. Di no. E perché uno anticipa queste cose di mesi? Ma sicuramente, come dire, oltre che non è stato l'unico. Sì. E poi i tagli del governo sono quelli che sono, cioè certo. L'ente era diventato ingovernabile. Perché uno si dimette per i tagli, secondo lei? Lei è pronto perché a fare no. Lei è pronto, le posso dire la verità, lei è pronto per fare politica proprio alla grandissima. Ma vuole entrare... da che punto di vista me lo sento. No, ma è anche un po' ironico. Scusi un attimo. What about? No, poi c'è Parenzo che insiste su no, what about. No, voglio chiedere una domanda. Scusi, signor Cesaro, però volevo chiedere una cosa, ma a lei piacerebbe entrare in Parlamento? A me, io penso che tutte le persone che fanno politica hanno un'ambizione di entrare in Parlamento, sicuramente non a breve. Non a breve, cioè la prossima legislatura lei non vuole entrare? Sicuramente no. Sicuramente no, e qual è la sua ambizione politica? Diventare consigliere regionale, diventare alla provincia, ci sarà una... Guardi, io lavoro, poi si vedrà, poi non si vedrà. È un'ambizione ben precisa. Poi si vedrà. Comunque, il presidente della provincia di Napoli, il deputato, secondo me non si può fare, troppo lavoro. Dici? Sì, troppo lavoro. Ma in Francia mi sembra il 60-70% dei deputati sono anche sindaci, presidenti di provincia. Sì, ma di piccole città. Comunque poi non è comunque male, cioè, male. Mica detto che sia un bene. Magari stando in Parlamento può portare, come dire, le istanze dell'ente anche a Roma. Risposta, in più. No, risposta prevista, per carità. Abbiamo previsto anche questa risposta. 30 secondi, torniamo subito. Le devo chiedere su un'ultimissima cosa, eh. Armando Cesaro, vice coordinatore della Giovani. Scusi, lei quanti anni ha Cesaro? 30? Dell'82 mi sembra. 30, ma fa ancora l'università? Io sì. E come mai a 30 anni fa ancora l'università? Scusi. Se l'è presa un po', no? Se l'è presa un po'. Sicuramente me la sono presa comodo. Ho tanti impegni. Ho avuto anche problemi di salute, non ho potuto stare per 3 anni. Se vuoi, ti spiego tutto, ti mando la cartella clinica. Beh, con una splendida ironia, il figlio di Raffaele Lombardo, si è autoproclamato tonno, che cos'era? Pesce spada invece di trota, com'era invece Renzo Bossi. Ora Armando Cesaro naturalmente ha approfittato della pausa per mandarci a quel paese per staccare la telefonata, come è normale che sia, no? L'abbiamo preso troppo per il culo, Parenzo? Non mi sembrava, io avevo una domanda in inglese da fargli. What about the future? Vabbè, adesso riproviamo, ma ci manderà a quel paese. In inglese, what scusi, about Cattaneo, future? Ma com'è possibile che esista il vice che lei non conosce dei giovani? Ma è una farsa questa cosa dei giovani del PDL. Naturalmente è spento il telefono, eh. Proviamo a richiamare così in diretta. Voglio far vivere tutto in diretta. Armando Cesaro, vice coordinatore della Giovani Italia, figlio della Polpetta Cesaro. Ma no, partecipo anche spesso a delle iniziative, diciamo che ho più contatti con la presidentessa, che comunque mi ha attaccato anche lei per par condicio. Ah, la signora Calabria. Comunque, un attimo solo, che succede? Batteria telefonica di... E vabbè, e poi scompare. Torniamo subito, dopo la pubblicità, con Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, formattatore per modo di dire, perché qui non spilla nulla, non è che dice chi vogliamo formattare, chi vogliamo rottamare nel PDL, sindaco di Pavia. Abbiamo appena sentito il figlio di Luigi Cesaro che ha spento il telefono. Eccoci, alle 20 abbiamo anche sentito la voce in esclusiva per la Zanzara, caro Parenzo, del figlio di Gigino la Purpetta. T'ho fatto la sorpresa, eh. Armando Cesaro. Armando. Che c'è? Dai, impazzite le agenzie, l'auditel è esploso. Ma è che evento, stai dicendo? Che evento dici? Clamoroso, il figlio della polpetta, la zanzara, meraviglioso. Beh, insomma, Armando Cesaro, il quale ci ha detto che a 30 anni è ancora all'università perché se l'è presa comoda. Diciamo. Ma vogliamo parlare di politica oppure vogliamo cazzeggiare? Ho capito, ma di politica adesso, cosa? Poi, caro signor giovane Polpetta, sì. Vogliamo parlare di politica adesso un momento? De Gasperi parlava di politica, no? Il signor Aldo Moro parlava di politica, no? Cioè, voglio dire, e tu riti, ma voglio dire, ma ci può dire il figlio della Polpetta, vogliamo parlare di politica? Oppure io gli attacco. Di politica parlava di... La tira parlava di politica, hai capito? Non il figlio della Polpetta. Vado ai matti io quando sento questo. Abbiamo sempre con noi, dove sono? Perché dicono, ma insomma, questi qua che vogliono rottamare il PDL parlano in politichese, sono più democristiani degli altri. Sveglia, signor Cattaneo, sindaco di Pavia, PDL, insomma, dovrebbe essere la nuova generazione, picchiamo un po' duro, o no? Vabbè, ma stiamo picchiando duro. L'altro giorno a Treviso, davanti a 1000 persone, abbiamo detto che era giusto che Berlusconi facesse un passo di lato. Vabbè, te credo, l'ha detto avanti. Lui adesso. Insomma, poi anche su chi formattare, ma gli italiani lo sanno già chi formattare. Se voi andate sul sito della Camera, guardiamo chi c'è lì da più di 20 anni, si sente anche un po' il sapore di muffa. E apriamo le finestre e facciamo un bel ricambio. Ma chi è che fa muffa nel PDL oggi? Chi è che ha fatto muffa? Basta, facciamo i nomi e cognomi, sennò altrimenti restiamo vaghi. Sempre ma non è vero. Guarda, una cosa ancora più bella, facciamo un metodo per aprire le finestre, che sono le primarie, che possono benissimo fare anche da noi. Lo dicono ha tutti visto? Adesso. Già mi sembra che gira voce che ci sono un po' di senatori del mio partito che stanno firmando un documento contro il marcia indietro rispetto al Porcellum, che hanno paura di preferenze, hanno paura. Ma io pure sono contro le preferenze nominali. Ma sul sistema da decidere ci possiamo confrontare, ma che questo sistema Porcellum vada sicuramente modificato, credo che... Scusi, chi è che fa muffa però? Andiamo alla domanda, Cattaneo. Uno di quelli che fanno più muffa, chi è? Ci dica qualche nome, su, partiamo dall'alto. Berlusconi ha fatto la muffa, sì. Ma Berlusconi è uno di quelli forse che ha fatto meno di muffa, sta cercando anche lui un po' di toglierla di mezzo. Ecco, ma lei come lo vede Berlusconi? Lo vede come nonno ormai, con i giardinetti annessi, come, che ne so, padre nobile, presidente di una fondazione, oppure senatore a vita, presidente della Repubblica? Ci dica la sua. No, secondo me appunto padre nobile del padre nobile. C'è anche da dire che, attenzione, che se Berlusconi decidesse davvero di andarsene... Lei non ci crede, serio, il centrodestra imploderebbe in un secondo. Ma Renzi le piace? Le piace? Renzi è simpatico. È simpatico, lo voterebbe. Se non ci fosse, se non fosse nel centrodestra, lo voterebbe, diciamola tutta. Ma diciamo che sono un po' preoccupato che un po' di amici miei mi dicono che vanno a votare alle primarie del PD. E questo, più che preoccupare me, dovrebbe preoccupare la mia area politica. Cioè, un po' di elettori del centrodestra che lei conosce a Pavia, amici suoi, vanno a votare Renzi alle primarie. Questo effettivamente avviene a Pavia, come noto in tante altre parti. Scusi, Cattaneo, se Renzi vincesse le primarie del centrosinistra, lei lo voterebbe come presidente del Consiglio? Probabilmente a quel punto vuol dire che lui se ne andrebbe dal PD. PD, diventa il capo del PD e si candida, magari manda meglio, via Vendola. Spiego, probabilmente se ne andrebbero gli altri dal PD. Comunque lei lo voterebbe? Ma no, finché Renzi è lì in quel soggetto non ho niente da condividere rispetto al percorso che sta facendo. Però è d'accordo su molte cose, per esempio, che dice lui? Sui contenuti, sì, poi devo dire anche che da sindaco a sindaco alcune battaglie sono molto simili. Ma anche sui contenuti in generale è d'accordo spesso? Beh, per esempio quando lui ha detto un po' il discorso anche del ruolo dei sindacati nel nostro paese, del lavoro, quando ha detto che a volte nelle nostre pubbliche amministrazioni, nei comuni, la fila davanti al cartellino 5 minuti prima della scadenza dell'orario è un po' fantoziana. L'ha fatta godere, mi ritrovo molto, ecco. Ma torniamo alla muffa un attimo. Sì, torniamo alla muffa, torniamo a qualche personaggio. Ai muschi e ai licheni torniamo. Ma su, dai, qualcosa bisogna dirla. Per esempio, sennò che Gasparri deve essere ancora in Parlamento, secondo lei? Ma vogliamo guardare avanti, bisogna andare avanti. Gasparri, no, guardiamo indietro un attimo. Gasparri deve essere in Parlamento, sì o no? Ma facciamo una bella competizione, facciamo una primaria. Ma non ce la si può cavare così. Qualche formattatore, qualche sindaco in gamba e vediamo un po'. Mi dica la verità, se la sinistra però, il PD si dimostra più democratico di voi, cioè più lungimirante con questa storia delle primarie, questo lo può riconoscere. Dobbiamo imparare dal centro-sinistra. Io ho fatto anche un'agenzia, l'ho detto a Berlusconi, fai una cosa di sinistra, le primarie, una sola facciamo di sinistra. Ma chi è stato alla fine lo schettino del PDL? Cioè quello che ha portato il PDL a questo sfascio totale, cioè lo schettino. Ma Berlusconi, diciamo che secondo me è un po' al contrario, che Schettino era uno che guidava probabilmente in maniera un po' disattenta. Poi c'era uno che tentava anche di guidare con però diciamo al fianco a una serie di, dunque ci sono tanti Schettino nel PDL, questa è la realtà, e tante moldave o no? Diciamo che lo staff a supporto del nostro capitano, invece che essere d'aiuto, nel tempo è diventato un po' una zavorra. Cioè ci sono molti Schettino del PDL, questo si può dire, o no? Ma no, no, diciamo che lo Schettino era il capitano, quindi no, ci sono... Sì, però non si può dare la colpa sempre agli altri. Ci sono altri, anche cioè, un po' troppi marinai che nel tempo sono stati portati su nella cabina di comando. Sì, ma insomma, chi vogliamo formattare, chi vogliamo rottamare su Cattaneo? Diciamo la verità, Gasparri, La Russa, Verdini, tutti via? Ma questo lo decideranno gli elettori, i nostri elettori secondo me l'hanno anche già deciso, però basta dargli la possibilità. I nomi non li vuole fare, vabbè. Ma no, ma perché fare i nomi? È più bello confrontarsi sui contenuti. Ma quali contenuti? Ancora pensa che ci siano contenuti in ballo, qui non c'è nessun contenuto, diciamo la verità. Se no potrei dire, parliamo di politica, Bruciani, parliamo di politica. Com'è che fa Gigi, il figlio di Gigi la Curfetta? Parliamo di politica. Com'è? Parenzo, come faceva? Parliamo di politica, oppure di attacco. Ma com'è? Ripeto, La Pira, il grandissimo La Pira poteva parlare di politica, ma no. Parlava di politica, oppure di attacco. Chi ha i voti, chi ha un po' di credibilità, chi ha un ruolo in questo momento, per carità, parli di politica. Però Cattaneo, la muffa, non si deve dimettere, si deve dimettere, signor Formigoni, sì o no? Ma Formigoni, voglio dire... Manco questo ci vuole dire, che adesso me ne va, adesso la caccio io. Ma che devi formattare? Occhio che di zanzare qua a Pavia ce ne intendiamo. Lo so, però... Non so se mi pungete voi o se vi schiaccio Ho capito, però adesso... Che formattatori, democristianoni siete. Altro che formattatori. Scusi un attimo, Formigoni, dopo quello che è successo, si deve dimettere sì o no? Rimanendo a quello che è successo oggi, non è Formigoni oggi, il tema oggi è... Ma come non è Formigoni? È anche Formigoni, altrimenti non se ne parlerebbe. Le responsabilità sono di questo assessore e da quello che leggo sono anche cose piuttosto pesanti. Però parlo anche un po' per nostra esperienza. Io Pavia, caso unico probabilmente in Italia, ho pure fatto dimettere un assessore per un'accusa simile, caso unico. E poi dopo due gradi di giudizio dove l'hanno assolto perché il fatto non sussiste, l'ho riportato in giunta. Ogni tanto succedono anche queste storie. No, ma io oggi ho anche scritto questa mattina contro chi se la prendeva e dava del mafioso subito a Zambetti. Io ho detto vabbè, sì, adesso stiamo attenti, stiamo calmi, però fatemi sentire la canzone di Zambetti che è tanto giustizialista, però mi piace. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti, lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti, saranno 50 euro a voto. Vabbè, lei lo sa cosa si scrive sul web in queste ore, in questi minuti, si scrive che ormai per la giunta della Lombardia si può riunire direttamente a San Vittore, cioè forse ora voglio dire, però una parola definitiva, Formigoni oggi secondo lei politicamente ha chiuso sì o no? Lo decideranno gli elettori, questo. Lo decideranno. Ma quali elettori? Altro che formattatore, un disastro. La Minetti si deve dimettere, questo è facile. Questa qua dire di sì è troppo facile. È troppo facile. Non lo dico perché è Chi sono facile. Le altre Minetti? Allora, ci sono altre Minetti nel PDL? Sì che ce ne sono. Questa è buona. Chi per esempio? Ci sono tante, ma basta una tecnica molto semplice. Qual è? Mettiamole davanti al nostro elettorato. Ma oddio, questo lo sappiamo. Però chi sono le altre Minetti del PDL? C'è gente che è arrivata lì non per meriti, ma perché è transitata dalle dimore del Premier. Io dico solo dalle dimore, non dico i dettagli. È transitata dalle dimore dell'ex Premier. Mi sembra una frase che si può accettare. Anche lei la può accettare, o sbaglio? C'è la Minetti perché è là? Me lo dica lei, Cattaneo. La Minetti è là perché era un'ottima igienista dentale. Ah, vabbè, ma dai, sono... ride anche lei. Dai, ride su, anche lei. Ma non è possibile. Ma i formattatori, ma non dicono nemmeno le cose ovvie. Le cose ovvie. Uno dovrebbe dire. Ma dobbiamo essere avanti perché ormai queste le dicono tutti. Ma non lo dice nessuno invece. Uno del PDL dovrebbe dire. Insomma, per esempio, una che l'ha attaccata recentemente, così mi viene in mente adesso, la signora Calabria, perché è lì secondo lei? Io il percorso politico della Anagrazia non lo conosco. Ma io non voglio dire che è transitata, eccetera. Io non frequentando la sì. casa di Arcore o di Villa Giardetto, non so da chi fosse frequentata, attraversata, quindi non ho idea. Non hai idea. Ma chiedo scusa, Cattaneo, però perché adesso mi girano le balle, ma non per lei. Ma voglio dire, ma che cos'altro deve succedere perché qualcuno si dimette in quella regione Lombardia? Cos'è che deve succedere? Devono stuprare 50 donne in piazza del Duomo? Ma che deve succedere, signor Cattaneo? Scusi. Perché... Cattaneo dice che non si deve dimettere ancora, Formico, non sbaglio. Ma e cosa deve succedere più clamoroso ancora? Ma allora, sicuramente la regione Lombardia, voglio dire, è la testimonianza di una cosa che noi diciamo da tempo, che più di 2-3 mandati nello stesso posto, poi le situazioni si incrostano. Questo è il limite dei 3 mandati, 2-3 mandati, poi discutiamo come lo chiediamo per il Parlamento, come vale per me che sono sindaco, formattatori, vale anche per le regioni. Questo... Però contiamo che lui ha vinto, cioè candidandosi, essendo votato, peraltro l'avversario si chiamava Penati, quindi probabilmente la regione sarebbe comunque caduta. Lo dico solo. Scusi Cattaneo, quando lei dice ci sono altre Minetti nel PDL, dove sono queste altre Minetti? Nei consigli regionali, in Parlamento ci sono altre Minetti? Immagino di sì. Che ci siano, e il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo ci sono anche tante ragazze in gambe, comunque almeno lì sono state votate, quindi c'è un passaggio dal cittadino che diventa responsabile. Poi ci sono anche delle ragazze che invece sono in gamba. Sì, no, per carità, nessuno dice niente. Parenzo, che vuoi chiedere ancora? Perché qui sti formatori non vogliono formattare nessuno. Ci vuole più coraggio, Cattaneo. Più coraggio. Ma magari ti garantisco che abbiamo dei bei mirini grossi puntati contro. Ma contro chi? Per esempio, contro chi? Sì, la minaccia. Contro di noi ce li hanno appunto, ce li hanno ma tanto ormai che ormai più ma si chi vi vuole fare la pelle? I nomi, chi vi vuole fare la pelle? Tutti quelli che hanno paura che andiamo là a erodere posizioni consolidate, che poi non interessa particolarmente prendere la loro cadrega, come diciamo da queste parti. Cioè, interessa creare qualcosa di diverso, di diverso. Nuovo, di veramente credibile. Ma se uno non lo spazio del centrodestra c'è in Italia. Ho capito, per però, Cattaneo, se uno non comincia a dire la signora Minetti si deve dimettere perché era indegno sin dall'inizio che ricoprisse quel ruolo, questo qua lo possiamo dire sì o no? Sicuramente sì, io volevo dire. Cioè non doveva diventare consigliere regionale, giusto? Su questo mi sembra chiaro, mi sembra anche che oggi siamo inflazionato e che quasi la Minetti sta diventando una vittima. Ho capito, ma lei la vede ancora lì oppure si deve dimettere su? Alfano, perché non fa sta telefonata? No, Alfano è giusto che la faccia. È giusto che la faccia e dunque è giusto che si debba dimettere, o sbaglio? Però io voglio capire una cosa da lei. Chi ce l'ha messa lì la signora Minetti? Me lo dica, la prego, a meno questo. La responsabilità è di... È del PD, ma è anche mia in fondo, guarda che anche mia che all'epoca non ha detto nulla. Attivista del PDL e non abbiamo probabilmente non ci siamo battuti abbastanza, però prima bastava per tutti che uno al vertice che si chiama Berlusconi prendesse i voti per tutti quanti. Oggi dobbiamo ribaltare completamente il nostro approccio. Dobbiamo Se mai fatto una canna in vita sua? Come? Se mai fatto una canna in vita sua? No, io no. Qualche ciucca, come si dice, sì, con gli amici, però canne no. A che età hai iniziato a fare sesso? Ma perché questo sesso? C'ha 33 anni, lascialo perdere. Ancora... Ma è nella media degli italiani, torna ai 18. Ancora giovane da questo punto di vista, su, ancora non... È fidanzato? È fidanzato lei, Cattaneo? No, sono sposato, tra l'altro siamo quasi in arrivo con la primogenita. Primogenita, quindi... vabbè. Ma vabbè, lei dice lo sbaglio? Viene dal mondo di Cielo, sbaglio? No, è stato appoggiato però al mondo di... Ma è la prima moglie. Possiamo andare da una cosca a comprare i voti. Lo sportello è qui vicino, stanno facendo gli sconti. Saranno 50 euro a voto, lo vedi a un buon prezzo. Corri presto, vai Zambetti, siamo tutti con te. Eccoci qui, 800 24 0024, riprende la zanzara. Certo che a pensarci, Marchionne ha fatto un autogol pazzesco. Tra l'altro si è anche arrabbiato con un giornalista che si era infiltrato dagli studenti, perché secondo lui le parole pronunciate su Firenze in particolare dovevano rimanere segrete, diciamo così. Secondo quale criterio non si capisce. Io appoggio sempre Marchionne, quasi sempre, in tutte le cose che dice, però oggettivamente mi sembra un'assurdità questa. Ti è tornata un po' di, finalmente, di lucidità. No, di lucidità. Quando uno dice che guida una città, piccola e povera, guida una città piccola e povera per quello che riguarda Firenze. Dunque, francamente, guarda, Marchionne dovrebbe chiedere scusa all'Italia, agli italiani, per due ragioni. Oddio mio, non ci rompere le balle. Primo, con questa storia. Primo, per questo attacco alla città di Firenze. E vabbè, adesso chiederà scusa a Firenze. Secondo perché il famoso piano. Oddio, Italia. Ma quello fa l'imprenditore, non fa il benefattore. Dovrebbe chiedere scusa. Vabbè, ok, ho capito. Adesso, se io avrò una furia a favore di Marchionne, residenza in Italia, sì, e vabbè, ognuno prende Italia. La residenza dove vuole. Bene. Nella vita, per fortuna. Bello. Per fortuna c'è questa libertà. Bello. Per fortuna c'è questa bello. Libertà. Bello, bel esempio. Stef, un attimo solo. Chiede. Aspetta. Abbiamo fatto. Pronto? Sì, buonasera. Parlo con Casa Scilipoti? Sì, buonasera, cercavo il signor Mimmo Scilipoti. Si è aspettato un attimo. Mimmo, sì, siamo niente. Ufficio tributi. No, voglio chiamare degli Scilipoti a caso in tutta Italia. Sì, ufficio tributi. No, degli Scilipoti a caso in tutta Italia, per capire come vivono il fatto di chiamarsi Scilipoti. Certo, no, è geniale questa cosa. Aspetta. Bella. Pronto? Ma perché la signora mi sta passando il marito? Abbiamo chiamato. Pronto, pronto, buonasera. Scilipoti? Come? Pronto, buonasera, cercavo il signor Mimmo Scilipoti. Sì. Mimmo. Mimico. Domenico Scilipoti, il deputato, ha capito? Come? Il deputato Domenico Scilipoti, lei lo conosce? Non ho capito, niente. No, sto cercando Domenico Scilipoti, ha capito? Sono il padre io. Lei è il padre? Domenico non c'è più. No. Come non c'è più? Come non c'è più, scusi? Mi dica. No, io sto cercando. No, Mimmo, quello che sta in Parlamento, Mimmo. No. Lo conosce lei, Mimmo Scilipoti? No, non lo conosco. Io. Non lo conosce, ma è parente. Ne ha sentito parlare? Sì, perché? No, ne ha sentito parlare? Perché? No, è per capire, cioè, perché noi lo stiamo cercando, forse abbiamo sbagliato numero. Avete sbagliato numero, dai. Ma lei lo conosce o no? No. Non lo conosce. È orgoglioso. Guarda, chiudo il telefono, non mi interessa. Non le interessa. Beh, no, però voglio capire, ma lei si chiama Scilipoti, ma... Ho detto, non mi interessa, o mi chiamo Scilipoti, o mi chiamo Pingo Pallino, non mi interessa. Ma non dobbiamo vendere delle enciclopedie. Ma non stiamo vendendo nulla. No, non mi interessa. Chiudo il telefono. Chiuda il telefono. E chiama... Vabbè, arrivederci. Tu digli al mafioso che ti mando io. Stefania da Prato, 800 24 00 24, primo tentativo riuscito. Avete al 50%. Avete trasformato questa trasmissione. Pronto? Buonasera. Pronto? Signora Stefania, buonasera, dica. Buonasera, sì, mi riferisco a quello che ha detto prima anche lei in merito al dibattito Renzi-Marchionne. Sì. Io non voglio entrare nel merito di questo scambio di complimenti per quanto riguarda l'aspetto delle idee politiche, dell'attività di queste persone, eccetera. Cioè, vorrei un po' invitare il dottor Marchionne a riflettere bene, a sciacquarsi anche la bocca prima di parlare. Vabbè, l'ha detto anche Renzi, non c'è bisogno adesso che lei aggiunga. Ma io, guardi, cosa dice Renzi, sinceramente l'ascolto il giusto. Ho sentito questo discorso di Marchionne, mi ha un po' colpito, perché gli vorrei ricordare che Firenze in particolare, ma anche le altre città della Toscana, è vero, magari sono piccole se paragonate alle metropoli europee, alle metropoli americane, ma questo di per sé non è una cosa negativa, almeno per quanto ma infatti mi è insensata questa cosa. Qualcuno parla di un'americanata, ma insomma il sì, sindaco... poteva riflettere, insomma, riflettere meglio, sciacquarsi la bocca, perché magari si capiva anche meglio quello che voleva dire, visto se che già parla... la figura è impopolare, secondo me, in modo anche immeritato. Quello secondo lo me, dice lei, secondo me, così. No, ma secondo me, perché sì, come al solito, tutti quelli che vanno controcorrente, tutti quelli che vogliono cambiare le cose sul serio dal punto di vista delle relazioni sindacali, eccetera, tutti quelli che guardano solo la propria azienda e non alle stronzate tipo al paese, a queste cose qui vengono visti male. E vabbè, archiviamo questa cosa qui. È impopolare di suo, credo, poi non credo che sia mai stato fatto un sondaggio solo su Marchionne. In più, uno parla così di Firenze, allora è finita. Sì, infatti. Penso che abbia detto bene quando lei ha detto prima, lo ha definito un autogol pazzesco. Va bene. È veramente una cosa che disturba. Grazie, grazie Stefania. Luciano da Milano, buonasera. Luciano? Pronto, signor Luciano? non mi risponde più. Gabriele, provincia di Napoli. Pronto? Dica. Buonasera, vorrei sapere perché ironizzate sempre con i politici del sud invece con quelli del nord, siete sempre molto seri. No, ma guardi, facciamo così con tutti. E non poi penso che alla regione Lombardia alla fine resterà solo Minetti. Eh? Alla fine alla regione Lombardia resterà solo la Minetti. Ecco, ha detto una stronzata delle 20 e 23. Che vuol dire? Che vuol dire? Scusi, Gabriele, che vuol dire? Ah, vuol dire che con tutti gli indagati alla fine resterà la Minetti. Richiamatemi questo ascoltatore, Gabriele, avevo capito male. Ha chiuso, che vuole fare? Dennis da Vicenza. Salve Luciani, pronto? Dica. Pronto, salve. La butto lì, se Berlusconi mette liquidazione del PDL e arruola Renzi, sì. Gli ha fatto un mezzo indosso. Ma se lui non si vuole fare arruolare, scusi signor Dennis, abbia pazienza. Sì, ma guardi che sbanca tutto, Guardi, io l'unica previsione che faccio, magari sarò smentito, è che se Renzi vince le primarie del Partito Democratico, del centro-sinistra, chiamatele come volete, dopo è già a Palazzo Chigi proprio con le ali, cioè con la carrozza alata e col 60% di voto. Sarebbe interessante però vedere, però, confronto questa è la tra mia previsione. Renzi e Bersani proprio alle elezioni nazionali. Ma ho capito, ma intanto ci sono le primarie, solo uno sarà candidato più o meno, però, se, a meno che però non si mettano d'accordo. Secondo me il PD sta stretto a Renzi, cioè secondo me su questo non c'è dubbio. Ma guardi che già Renzi, ma probabilmente ci ha già provato. Grazie Dennis. Marco da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Scusi Cruciani, ma come osate accusare, non so, Cattaneo di essere poco coraggioso quando voi per primi, per esempio, quando c'è da parlare della trattativa di compravendita dei voti, arrivate solo all'ultimo facendo oh, ma com'è possibile, ha comprato i voti. Ma che faccio il coso, scusi, io che faccio l'investigatore, che faccio il magistrato, che faccio? Ma per favore, lo sanno che i sati, che i politici comprano i voti, su, ma se persino si non ma se lei senatori, se lei è così scusi, bravo, è così bravo a trovare gli accordi tra l'andrangheta e gli elettori e gli eletti sul territorio, perché non denuncia le cose, lei che è così geniale? Lei perché che è così non è il perspicace. Mio compito, forse? Perché sì, forse è il compito di chi dovrebbe fare informazione. Ma cosa c'entra, Marco? Ma l'informazione allora quasi no, sempre in allora questi no, casi. In questi allora casi. No. Scusi, Marco, allora le indagini no, vengono fatte anche sulla base delle intercettazioni. Non è che un giornalista si può mettere a intercettare le persone. Abbia pazienza. Sì, lo stesso Zambetti. Ma parlare della comunque cosa senza prove, come si fa a parlare della cosa? Ma di che sta parlando? Vabbè, lasciamo stare. Come ma vuole lasciamo lei, stare perfetto, cosa? Perfetto, cioè, lasciamo stare che. Allora, le dico solo un'ultima cosa e basta. Allora, tutte queste persone che parlano di Berlusconi dicendo lui ha governato bene, se sì, io vorrei che voi faceste furbi qualche volta, diceste ma scusi, mi dica una cosa buona che ha fatto Berlusconi per il paese, e le parla una persona di destra, quindi non mi dicano che sono comunista o cazzata. Guardi, non lo so, in questo momento c'ho mal di testa, non mi va di pensare a una cosa buona che ha fatto Berlusconi. Certo, sì, ho mal di testa, me lo posso permettere di avere mal di testa oppure devo chiedere permesso a lei, scusi? Ma no, è che scusi, ma questi vi dicono qualunque cagata in faccia, voi rispondete oh sì sì, bene, ma scusi. Ma guardi, non ho mai risposto così, non ho mai risposto così in vita mia. Lei ha bussato a un indirizzo sbagliato, caro Marco. Come ha bussato no, a un indirizzo no, sbagliato. Ha bussato a un indirizzo sbagliato. Io rispondo così. No, allora prima il tipo che vi ha detto anche la signora lì, quella lì che avete fatto sentire per dire che dice generazione B generation. Ma si rende conto di che cosa fate sentire? Appunto, ma l'abbiamo presa in giro, mi sembra in abbondanza. Ma quando scusate, ma che devo fare? Scusi, no, ma lei che cosa avrebbe fatto? No, mi spieghi il grande genio della comunicazione, il signor Marco da Roma. L'altro giorno le sì, ospite delle persone, non mi ricordo chi, qualcuno ha detto la stessa Biancofiore, sì. Berlusconi penso che abbia fatto bene tante cose buone, allora sì, penso che. Ma quando uno dice così, ma mi dica una cosa buona che ha fatto come politico. Sì, no? Beh, loro ti rispondono sicuramente qualcosa. Sì, allora cosa rispondono? Ah, sì, voglio sentire qualcosa. E allora? Allora? Allora cosa? Non ho capito. Cioè, voglio dire, ma non vuole dire niente perché non si è capito niente di quello che lei ha detto. Non è chiaro, non si è capito nulla. Cioè, non si è capito nulla, niente si è capito. Perfetto. Poi spesso lei deve capire una cosa, caro Marco, se vuole glielo insegno, ma se le posso fare una piccola lezioncina magari in privato. Cioè, le persone si lasciano parlare anche quando sproloquiano, proprio per sentire meglio lo sproloquio, per sentire le assurdità che dicono. Ma è chiaro o non è chiaro? Certo, però è chiaro, punto, basta. Uno può fargli la domanda, no? Ma le domande ne facciamo sempre, Marco. Ma se lei è più bravo, ma perché non le fa lei le domande? Ma me ne dica una che avrebbe fatto al posto nostro, così almeno siamo tutti più tranquilli e più chiari abbiamo scoperto. Benissimo, vediamo la domanda del genio. Su, vediamo la domanda del genio. Bene, la domanda del genio. I signori parlamentari, ecco, in silenzio, nel passato, hanno alzato la soglia dell'acqua potabile. Cioè, l'acqua potabile. Hanno alzato la soglia? la soglia dei limiti dei residui dell'acqua potabile per sì. renderla potabile. Benissimo. Vado a fare la trasmissione a Radio Bubù, va? Grazie Marco. 20 e 28, 800 24, 0024, è con noi Francesca Cipriani, buonasera. Buonasera, salve. Come salve sta? Come sta? Showgirl. Bene, bene, grazie. Come spero vanno che le sue... voi state non... bene. Combattiamo, come ha sentito. Bellissima Cipriani. Beh, bellissima, bellissima secondo te. Bellissima. Cioè, adesso non è che bellissima in assoluto. In assoluto. Senti, signor Cipriani, io voglio capire una cosa. Ma come vanno le sue sì. peripezie? Adesso c'è la pubblicità, poi riprendiamo. Ma come vanno le sue peripezie? Peripezie con il sedere, perché le sue peripezie, adesso noi siamo ironici, però in realtà è un dramma pazzesco. Perché... stiamo facendo strada. Innanzitutto, prima di appunto risponderle, volevo ringraziare, fare un ringraziamento pubblicamente a uno chi? Dei geni del nostro tempo, a Vittorio Sgarbi. E che perché deve ringraziare Sgarbi? Che ha fatto Sgarbi? Perché grazie a lui, appunto, volevo ringraziarlo. E perché voleva ringraziare Sgarbi? Dicendogli che appunto aveva ragione sulla persona che mi ha fatto conoscere. Siamo adesso sulla buona strada riguardo alla... il suo avvocato, dice lei. Vabbè, dopo lo chiamiamo. Casomai Sgarbi, per la signora Cipriani dovete sapere che a un certo punto ha fatto un ritocchino al sedere, cosa che io non sapevo che si potesse fare essendo abbastanza a digiuno di queste cose, un ritocchino anche piuttosto, come dire, consistente, perché voleva modellarlo come voleva lei, cosa che si può fare, no Parenzo, nella vita, o sbaglio? Sì, no, mi sembra strano che hai detto che sei a digiuno di questi temi, però andiamo avanti. Beh, sono assolutamente a digiuno, te lo assicuro, perché si voleva fare un piccolo ritocchino, solamente che c'è stato un errore clamoroso, almeno così sembra. Un danno incredibile al sedere della signora. E adesso la signora chiede un sacco di soldi, più di 100.000 euro, 150.000. Se vuoi parlare di politica, continuo, se no attacco. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita. Lei lo sa l'inglese meglio di suo padre, signor Cesaro? Sicuramente, però non c'ho tempo da perdere. No, excuse me. Volevi parlare di politica. Non le importa mucho, se non prendo sueno. A lei piacerebbe entrare in Parlamento? A me, io penso che tutte le persone che fanno politica hanno un'ambizione di entrare in Parlamento. No, sicuramente lei... non a breve. Urban Forum. E poi a 30 anni faccio ancora l'università. Fa ancora l'università? Io sì. E come mai a 30 anni fa ancora l'università? Scusa, se l'è presa un po'. Sicuramente me la sono presa con molto. Tanti impegni. Il figlio di Luigi Cesaro, presidente della provincia di Napoli, Armando Cesaro, che non a caso è il vice dei giovani del PDL, signor Armando Cesaro. Che è successo? Che no, fai? Niente, un po' di catarro. È con noi Francesca Cipriani, showgirl. Buonasera. Ex coloradina, all'avvocato più bravo del mondo. Bravo, davvero bravo. All'avvocato sì. più bravo del mondo, perché è anche un mio amico, naturalmente, una persona che stimo molto. Vero. Allora, la cosa che voglio chiedere subito alla signora Cipriani, però, è una sola. Adesso, al di là della questione sì. tecnica, eccetera, ma uno perché alla sua, lei quanti anni ha, signora Cipriani? Io ho 28 anni, l'ho fatto quest'estate. 28 anni. Quando, lei ha, quando lei ha fatto questa operazione ai glutei, aveva dunque 26, mi sbaglio, 26 più o meno? Sì, beh, 2 anni fa. Ecco, due anni fa. Perché uno, adesso detto con tutta sincerità, perché uno a 26 anni decide, come si dice in gergo, di rifarsi il culo? Ecco, cioè, io guardi, non ho nessun tipo di pregiudizio, cioè non davvero almeno non ho... io ho la sincerità di dirlo, ripeto, cioè io vabbè penso per me, nel senso, però come le ho detto prima sì. davvero c'è una percentuale altissima di questo intervento, tantissime persone lei che dice... lavorano nel mondo dello spettacolo e non sono sì veramente? Sì, perché anch'io ho scoperto di questo intervento grazie a delle ragazze che vabbè, per privacy non dico i nomi, però insomma sì. è proprio molto frequente. Molto frequente. Ma lei perché? Bene, ma lei perché? Risultato. È un bel risultato se fatto bene. Cioè... meglio, per stare meglio con il mio corpo, per vedermi meglio, perché fa gola, cioè. Cioè, ma lei come ce l'aveva come ce l'aveva sti glutei, sto sedere ma prima? Normali, da donna italiana normale, non era sicuramente un gluteo, diciamo, alla Jennifer Lopez. E come lo voleva lei? Qual era il problema? Alla Jennifer Lopez. Lo voleva la Jennifer Lopez? Sì. Cioè sì. Lo volevo più prorompente, più... Fa parte della mia personalità un corpo così, quindi già di base, diciamo, sì. sono così, però volevo calcare la situazione. Cioè voleva un sedere parlante. Beh, no, sì. parlante, cioè, voleva un sedere prorompente perché la signora ha anche la settima, se non sbaglio, no? Sì, sì, sì. anche lì con un intervento. Con un intervento anche lì, so, sì, sì, è andato bene, per fortuna non ho avuto complicazioni, sì. Mentre davvero il lato B me l'hanno devastato, cioè proprio sì, quello sicuro. Ma che succede quando uno, cioè come se ne è accorto? A un certo punto è esploso qualcosa, sa, noi siamo abituati. No, non è esploso nulla, ecco, esploso voglio sfatare anche questa cosa qui. Spatiamo, che è stata detta, sì. Non è mai esploso nulla, le protesi sono state mal posizionate in sala operatoria il giorno dell'intervento, quindi è stato fatto male proprio l'intervento, la logica dell'intervento è proprio, sono state messe sotto pelle, ecco, le protesi invece che sotto muscolo, una cosa pazzesca. Scusi un attimo, pazzesca, ma proprio, sì. Scusi un attimo, signora Cipriani, però c'è uno come fa ad accorgersi? A un certo punto sente dolore, Fuori proprio. Allora, una volta che l'edema, comunque, dopo una ventina di giorni che si era assestato, mi hanno sbendata. Sì. Ho visto che le protesi erano fuori, si vedevano. Erano due palloni, avevo male, non riuscivo a dormire la notte. Ma poi, facendo anche tutto un liquido intorno, perché la pelle poi si stava assottigliando e se non le toglievo mi uscivano dal corpo una cosa tremenda qui mostruosa. Purtroppo sta ancora esercitando questo chirurgo, a quanto pare, insomma, povero a chi ci capita. Ma adesso vanno fermate queste persone. No, che dici, qual è adesso? La situazione è che c'è una causa in corso. La situazione è che è una causa, ma anche qui c'è un calvario giudiziario, a quanto pare. No, la situazione del sedere, voleva sapere. C'è un'evoluzione. Sì, c'è ho dovuto statistica. Fare tanti interventi dopo. È dovuto arrivare dal Brasile Raul Gonzalez. Sono stata operata più volte. Mi hanno ricostruito tutta la fascia muscolare. Ho fatto un intervento di 7 ore di sala operatoria due anestesie epidurali, una dietro l'altra. Cioè, una cosa proprio. Una cosa drammatica, certo. Drammatica. Sì, no, per carità, adesso senza scherzo è così, però resta essere una cosa estetica, una cosa positiva e gioiosa, è diventato un incubo. Ma lei, scusi un attimo, cioè, non si è un po' pentita di essersi pentita di aver scelto il chirurgo sbagliato, cioè non aveva lo rifarebbe comunque con un altro chirurgo, lo rifarebbe adesso? Sì, con un altro chirurgo, tornassi indietro, perché no? Cioè, adesso lo rifarebbe? Il chirurgo adesso lo rifarebbe? Allora, diciamo, adesso che ho passato questo calvario, una domanda, cioè non so cosa rispondere, no? Che ne so, ripassare quello che ho passato, ma no, se lo deve ripassare, no, ma voglio dire, ci riprovano un'altra volta? C'hai in mente di riprovarci un'altra volta per fare un sedere alla Jennifer Lopez? Ma il muscolo abbastanza rovinato adesso, è un po', insomma, è difficile, è un casino al momento, cioè al momento è un casino, Vabbè. Sono migliorata molto, cioè adesso sto abbastanza bene, però insomma non lo so. Vabbè, qui si scatena sul web chiaramente anche l'ironia, però l'ironia va bene, ragazzi, perché qui è una trasmissione ironica, sì, però sì, possiamo ridere e scherzare, ma a me personalmente non viene da ridere, perché no, infatti, quello che ho passato, per poi carità. Vabbè, dato che è una parte del corpo che magari appunto, ecco, ma come faceva, secondo Parenzo, prima della trasmissione, mi chiedevo, quando io gli spiegavo questa cosa, mi chiedeva una cosa, come al solito suo, perché è una persona un po' birichina. Mi chiedeva, come si fa in questo, insomma, lei ha passato un calvario, a fare all'amore in questo, cioè è una cosa complicata o no? Non c'entra nulla. No, beh, c'entra ma nulla. No, voglio dire, nel senso che anche io, è ovvio che quando ero in quelle condizioni, cioè non mi facevo vedere neanche vestita lontanamente, cioè mi sono chiusa in casa, non c'è dubbio. Era evidentissima la cosa. Sì. Ma questo me l'ha chiesto Parenzo, infatti, come al solito. Sì, ma era tutto superato. È ovvio che sono stata fuori dal mondo, dal lavoro, dalle amicizie, relazione sentimentale. Cioè, ero proprio estranea a tutto in quel periodo, anche psicologicamente ero molto giù. Quindi lo dicevo semplicemente. Come faceva a sedersi? Scusi, come faceva a sedersi? Mi sedevo, però faceva male. Sentivo questo corpo estraneo dal corpo, che male, dolore. Comunque adesso stiamo avendo problemi anche per, dopo tutto questo, anche per essere risarcita. Sì. E non c'è dubbio, non io c'è dubbio. Io manderei un messaggio, però, signora, coglierei l'occasione per dire che il corpo delle donne è bello così, perché ma se uno si vuole fare ritoccare, se uno vuole un intervento, è il post berlusconismo che ci ha trasportato in questo make up culturale. Ma non fare queste prediche, perché voi uomini siete i primi che comunque guardate i bei fisici, non ve ne importa se è rifatto o non è rifatto, l'importante è il risultato, e vanno avanti comunque le persone fisicamente Nel senso, vanno avanti le persone che hanno le tette grosse, il sedere prorompente, dice lei? È meglio, è meglio. Fate bene, grande e piccolo che sia, cioè un seno grande, un seno medio, non c'entra la grandezza, c'entra comunque l'essere, lo star bene, l'essere proporzionati, lo stare bene. Altrimenti si lavora meno, dice lei, no? Beh, potete fare anche un sondaggio. No, ma no, ma io voglio sapere la sua opinione. Ma hai trovato l'amore? Una brutta grassa, non so, una ragazza orribile con una bella ragazza, mandatele ad un colloquio di lavoro e vedete con chi prendono. Vabbè, ma questa è una risposta. No, va ritrovato, questo dico. Va ritrovato purtroppo che? È così, purtroppo. Questo io che sono la prima dice, a dire purtroppo. Perché va ritrovato l'amore per l'imperfezione. Questo perché il berlusconismo ci ha abituato al rifacimento. Ma che c'entra il berlusconismo? Se esisteva prima, è esistito dopo. Senta, ma il Presidente del Consiglio, che lei in alcune volte, che alcune volte ha frequentato nelle famose cene eleganti, era a conoscenza, è a conoscenza l'ex Presidente del Consiglio di questa sua vicissitudine? Non ho la più pallida idea, forse se l'ha letto sui giornali, che ho visto tutti i quotidiani anche che hanno scritto di questa notizia. Da quanto tempo è che non lo frequenta? Beh, allora, innanzitutto non credo cosa c'entra adesso. Ma no, ma stiamo così cambiando argomento, cioè stiamo parlando del mio stato fisico, del mio calvario. Stiamo cambiando adesso del berlusconismo. Ma no, ma no, ma che c'entra? No, non è ma no, è ma sì. Eccoci, 800 24 00 24, per la felicità di Francesca Cipriani, showgirl che sta passando, ha passato, ma ancora non è finita una vicenda complicata con la questione dei glutei, eccetera. Vogliamo chiamare in diretta Vittorio Sgarbi. Chiamatemi Vittorio, su, così risolviamo la questione. Ci abbiamo tutto a disposizione? Sentiamo se squilla il telefono, Signor Cipriani, però non è che volevo farle l'interrogatorio su Berlusconi, per carità, lei poi ha già detto delle cose, è stata anche a testimoniare, per carità, non voglio assolutamente... No, no, io non ho testimoniato nulla. Testimonierà però, no, se non sbaglio? Cosa? Testimonierà o sbaglio al processo? Ma non so se mi chiamano, ma non sono né indagata né... No, cioè, per carità, assolutamente, no. Assolutamente. Un attimo solo, Chissà dove sarà qui il professore adesso. Professor Sgarbi, chissà dove sta. Che tra l'altro ha molestato una mia... discusso animatamente con una mia ex collega l'altro giorno, dicendo quel coglione di Parenzo. Sì, così ha detto? Sì, sì. Ma fa sempre così. Si chiama Annalisa Corti, la collega, non so se lei voleva si rivelasse il suo nome, ma me l'ho fatto. Annalisa Corti. E che cosa ti ha detto questa Annalisa Corti? Mi ha telefonato e ha detto, sai, l'altro giorno ero lì a Palazzo Marino, al comune di Milano. Sì. E mi si è fatto il conto Vittorio, che mi ha riconosciuto da una cena che avevamo fatto, sì, con lui, mi ha detto, tu sei l'amica di quel coglione Parenzo, dì, basta, a Zanzara sono due coglioni, cretini. Vabbè, ma lo fa apposta, poi ci adora, no, naturalmente. Oggi ha parlato malissimo di Beppe Grillo, dicendo che è uno brutto, grasso, su questa storia della nuotata, eccetera. Sui difetti fisici però è sempre brutto scherzare. Ma sì, dai, su. Però io ho una curiosità, devo chiederla assolutamente alla signora Cipriani, che è stata, credo, quante scene ha fatto a casa del signor Berlusconi lei? Quante scene è andata? 2, 3, quante è andata? Ma io sono stata un paio di volte, ma guardi, non le nego che ci tornerei volentieri, c'è una persona veramente speciale, è una persona, sì, buona, di compagnia, quindi proprio non vedo nulla. No, di... ma io non ho detto nulla di particolare. Beh, no, perché non se ne può più di sentire tutte queste chiacchiere. Ma io non ho detto niente. Siamo veramente stufi. No, tutti. Ma io non ho detto nulla, assolutamente. Ha ricevuto anche qualche regalo, mi sembra, lo ha dichiarato pubblicamente, no? O sbaglio? Cosa? Lo ha dichiarato anche pubblicamente che lei ha ricevuto qualche regalo. Sì, ha omaggiato tutte le persone, sì, che c'erano, certo. È un uomo di altri tempi che omaggia le donne, certo, perché è proprio così. Sì, certo. Certo. No, ma non c'è niente di strano, anche mi no, sembra assolutamente, dei assolutamente. Monili, no? Dei monili. Perché anche in Abruzzo, quando lui era venuto a, sì, trovare lì, adesso non mi ricordo bene, aveva omaggiato anche lì delle donne che sono in politica, cioè proprio donne di tutte le età, lui ama fare di tutte le età. No, ma è vero, regalò anche una dentiera, ha ragione, è vero, regalò una dentiera. Ah, la signora. Può essere. No, sì, penso che regali anche dentiere comunque. No, se le ha regalate. Ha bisogno, se gli, secondo me le regala anche. No, ma guardi che è vero, io ho bisogno di una prostata nuova, me la può regalare? La prostata. Ho fatto tante cose anche per gli ospedali, per i bambini, io quindi io credo che... Sì, no, certo. Ma io devo rifarmi la prostata nuova, mi posso chiedere a lui secondo lei? Se perché no? Potrebbe avere... Potrebbe... No, delle cose alla... C'è da ridere sulla prostata mia, no, ma tu non puoi avere problemi alla prostata a quest'età, scusa, sarebbe clamoroso. Mi porto avanti. No. Per quando le avrai tu, che sei più vecchio di me. Ma è vero o no che al signor Berlusconi piacciono sempre dal punto di vista, come dire, senza voler... Le donne un po' rifatte. No, rifatte, un po' prosperose, è vero o no? Ma la donna prosperosa secondo me piace un po' a tutti. No, però io dicevo proprio a Berlusconi. Mi piace la donna androgena. Cioè, oddio, poi dipende, insomma. Cioè, ma sì, sono gusti, però una percentuale molto bassa, cioè molto il desiderio bassa, dell'uomo in generale credo che sia la donna comunque formosa che abbia le forme, se no che donna è, insomma, deve avere le forme la donna. No, per cui a Berlusconi sì, piacciono molto le donne prosperose. Non lo so, penso come tutti gli uomini. Come tutti gli uomini. Scusi, lei conosce bene la signora Minetti, no? La signora Minetti la conosce bene. No, io no, non la conosco, però mi è molto simpatica. Molto simpatica, ma che dice il fatto che resiste là? Le piace il fatto che resiste al posto? No, non parlo, non so cosa dirle perché non ho contatti con lei. No, certo. No, ma si sarà fatto un'idea, no? Resiste, come si combatte come una leonessa, fa bene a resistere in quel posto, alla regione Lombardia, eccetera, eccetera. Io penso che sia molto brava. Vedo che ho visto dei discorsi anche nelle ultime interviste, sia televisive che radiofoniche. Sì. E sta facendo le sue cose, insomma. Sta facendo che faccia le sue cose. Paese, ho sentito per gli ospedali anche lei, per i bambini, parecchi progetti. È già fatto, cioè una ragazza anche lei giovane, è la mia età. Sì. Quindi comunque, però l'ho vista molto grintosa. Che insomma. Sì. Sì, sì. Magari anche lei perché un domani. No, spazio ai giovani, cioè lei è una ragazza giovane, quindi magari anche lei magari pensa di entrare in politica. No, io voglio fare la comica invece. Ah, la comica, veramente? Sì. Oh, interessante. Faccio una battuta. Allora. Beh, ma allora, per esempio, una cosa di comicità che le piace, qual è, signor Cipriani? Mi piace la satira, quella non so, quella proprio che fa ridere, nella satira. Beh, quella satira sporca, nel senso le battute, quelle, una satira particolare, quella spontanea, quella proprio che si ha nel sangue, non bisogna lavorarci un quelli, po', sì, diciamo, visti, sentiti e risentiti, non mi fanno ridere. Non è facile essere comici, devo dire, è più facile essere drammatici. Però io mi sento nel sangue questa cosa, spero. La comicità, beh, guardi che la radio, per esempio, da questo punto di vista è una grande palestra di allenamento. Potrebbe cominciare ad allenarsi anche con noi, signor Cipriani. Guardi, potrebbe tirare fuori una vena di comicità. Grazie a Francesca Cipriani, showgirl, ai nostri microfoni, ci ha raccontato di questa storia incredibile, drammatica. Adesso sto scherzando, ma è la realtà di una persona che si è rifatta in gluti e poi a un certo punto spero di essere risarcita al più presto. Vabbè, questo glielo auguriamo, naturalmente. Grazie. Cristina da Milano, buonasera signora Cristina, dica. Sì, buonasera. Mi riferisco all'intervento che è stato fatto circa mezz'ora fa da una persona che aveva detto che non voleva più sentire parlare di politici nella vostra trasmissione. Anche perché l'Italia sta vivendo un momento assolutamente molto grave, di cui forse non ci stiamo rendendo conto. E parlare di politici, siamo stufi perché ce li sentiamo la mattina, a mezzogiorno, alla sera. Quindi la sua trasmissione, che all'inizio era provocatoria ma anche stimolante, a questo punto diventa, mi domando, dove porta questa vedremo sua dove porterà il vento. Allora, grazie, Oscar, devo chiudere. Viva Oscar Giannino, che porta avanti. Va bene, viva Oscar Giannino. Non porta avanti nessunissima idea. No, infatti non possiamo. È vero, non porta avanti nessuna idea, ce ne fottiamo totalmente. Luca dalla provincia di Brescia, velocemente. Domani siamo a Trieste a ricevere un premio. Luca, provincia ci di Brescia. Siamo lì, venite tutti, amici. Non c'è buonasera. Non sentiamo più nulla. Ci sentiamo domani in diretta da Trieste. Un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità, e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni, che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. Grazie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. C'è una zanzara comunista che mi ha preso. Guarda, vedi? Eccola qua. Radio 24. La passione si sente.